You have been listening to Late Night Tales. Music and stories worth staying up for. E siamo rientrati in diretta. Splendido lavoro anche questo elaborato dal grande John Hopkins. Ricordiamo ancora l'album Late Night Tales, questa ricostruzione di un'opera di Nils Fram. Veramente splendido il lavoro fatto da Hopkins, con la sua classica mano da DJ ma anche da sperimentatore elettronico nella manipolazione di questo lavoro, che ha fortissimi echi minimalisti, anche se poi ovviamente Hopkins ha lavorato su un piano differente. Il suo linguaggio, il suo modo di manipolare sonoricamente il lavoro compositivo di Fram. E a questo punto siamo già verso la fine della puntata di stasera. Scusate, ma ho dovuto abbandonare il rospino che mi stava accompagnando. Purtroppo alle volte esce quando meno te lo aspetti, è stato eliminato, non vi dico in che modo, ma è un rospino che mi accompagna spesso in trasmissione. Ognuno ha i suoi piccoli animaletti, chi ha i gatti, chi ha i cani, è un piccolo rospino che mi segue, lo porto con me in una piccola scatolina, però molto molto comoda, si può anche distendere e divertirsi, e poi in radio lo faccio uscire, girare un po' nell'ambiente, ma spesso mi crea questo effetto perché mi si attacca proprio alla gola, al pomo d'Adamo, e dunque mi crea questo effetto rospo, ma è il rospo vero e proprio, dunque non è un effetto creato dal fumo. Bene, dopo questo bel siparietto ci mettiamo a presentare l'ultimo lavoro di questa serata, di questo secondo capitolo dedicato alle novità del 2015, sotto questa sorta di narrazione acustica legata alla memoria e all'oblio, e andiamo a chiudere il nostro percorso sonoro con un autore, Ken Camden. Anche lui non è mai passato attraverso 451, ma gran parte degli autori di stasera è praticamente la prima volta che andiamo a presentarli all'interno del nostro spazio, autori tutto sommato anche abbastanza recenti, insomma degli ultimi 10-15 anni, ma soprattutto che hanno fatto uscire degli album interessanti che almeno a mio parere sono da inserire, diciamo, tra i percorsi sonori del 2015 più interessanti nell'ambito soprattutto di questa tematica della memoria e dell'oblio, almeno in un'interpretazione personale legata sia all'effetto emotivo, all'effetto evocativo, ma anche a un effetto storico. In questo senso l'effetto storico della memoria sta perfettamente dentro Ken Camden, che però all'interno c'ha una sorta di reminiscenza, di ricordo, di collegamento con un passato sonoro, ma nello stesso tempo emerge anche a livello proprio di composizione sonora un aspetto anche legato all'oblio, a una lontananza, a un allontanamento, seppur anche a un collegamento storico, perché si muove dentro una cornice sonora che ricorda molto la space music, lo space rock degli anni 70, con ovviamente delle coloriture e delle interpretazioni legate agli anni 10. In questo senso il lavoro di Ken Camden, che ha fatto uscire il suo primo album esattamente 10 anni fa, la sua prima uscita con la New American Folk Hero, poi ha continuato invece quasi sempre con la Cranky, che stasera è molto presente nei progetti che abbiamo presentato. L'ultimo lavoro è Dream Memory, uscito proprio nel 2015, ed è un territorio assolutamente particolare quello che esplora Camden, appunto quello legato alla space music, a un suono spaziale, un suono molto aperto, anche se l'album si muove proprio dentro anche quello che viene definito in termini musicali il genere Leadfield, ma in realtà poi dentro troviamo elementi dronici, elementi ambientali, elementi spaziali dello space rock, della space music. Abbiamo scelto proprio un brano che può legare molto questo discorso di memoria e oblio, che è appunto il brano che chiude l'album, Sleep at the Wheel. A questo punto chiudiamo con Ken Camden, con Dream Memory, il nostro secondo capitolo, la nostra seconda parte legata a 2015 memoria e oblio, prima di mandare in onda e chiudere la trasmissione trasmissione di stasera di 451 intersezioni. Vi ricordo sempre il nostro blog No Blog, se volete andare a scoprire le vecchie puntate, riascoltare le trasmissioni, sono tutte gratuite, scaricabili o ascoltabili in streaming o in podcast, insomma, sul nostro blog No Blog, 451frammentisonori.noblogs.org. Troverete, questa è una novità tecnico, diciamo digitale, creata sulla pagina web dal nostro collaboratore e facente parte del progetto, che spesso non nominiamo ma che è molto importante nel progetto di 451, che cura anche la pagina Twitter e Facebook di 451 Frammenti Sonori. Infatti potete anzi trovarci anche su Facebook con sotto il nome 451 Frammenti Sonori. Anche lì abbiamo postato sempre le informazioni legate alle puntate presenti, passate e anche future, in questo senso. E Lorenzo Albano, che ringrazio in diretta stasera proprio per tutto il lavoro che fa dietro le quinte, noi ci mettiamo la voce, non la faccia, perché non ci conoscete a livello visivo, ma la voce sì e i nomi sì, e dunque anche Lorenzo, giustamente, è anche bello ricordarlo e ricordare il lavoro che fa anche creativo e compositivo nell'ambito del progetto sonoro, ad esempio nella nuova pagina, una nuova progettualità che è partita proprio in questa stagione radiofonica 2015-2016, cioè quella di Futuri Rumori, questo spazio che adesso sta curando in termini di presentazione radiofonica Max Macchia nello spazio del mercoledì notte dalle 23 all'una in 451 Frammenti Sonori, cioè lo spazio dedicato a tutti gli autori, musicisti underground italiani e anche europei e internazionali che fino ad ora hanno mandato diversi materiali, state fatte anche delle puntate molto interessanti con materiale appunto da mandare. Noi diamo la possibilità nello spazio del 451 Frammenti Sonori del mercoledì poi di proporre questi materiali, di farli ascoltarli, di farli circolare. Dunque ve lo ricordo, se siete musicisti autodidatti o sperimentatori o anche insomma artigiani dell'aspetto musicale, di qualsiasi coloritura musicale, di qualsiasi anche strumento o tipologia compositiva, noi siamo aperti all'ascolto. Soprattutto la matrice fondamentale, quella legata alla sperimentazione, alla ricerca e all'avanguardia, mandate appunto il materiale, trovate tutte le informazioni dentro il nostro blog No Blog, 451frammentisonori.noblogs.org. E a questo punto ho dato tutte le notizie tecniche che servivano, spero giovedì prossimo, che sarà la puntata di 451 intersezioni sempre dalle 24, di poter fare questi due collegamenti. Li anticipo, ma non sono sicuri, sia con l'area sismica per la serata dedicata a Pier Antonio Pezzinga di sabato 9 aprile, concerto Arditi String Quartet al Teatro Comunale di Forlì dedicato a Pier Antonio Pezzinga, e speriamo anche di poter fare una piccola incursione radiofonica e devastante come al solito da parte di Antonio Rezzi e Flavia Mastrella per il loro spettacolo Anelante, che sarà presente qua a Bologna al Teatro Duse nelle giornate di venerdì 8 aprile e sabato 9 aprile. Io vi lascio ovviamente con Ken Camden da Dream Memory, album uscito nel 2015, con il brano I Sleep at the Will, e vi aspetto sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko per giovedì prossimo. Spero che questa puntata vi abbia cullato verso il sonno o verso qualcos'altro, perché va bene tutto. L'importante è non stare dentro la macchina produttiva costantemente, stiamo attenti in questo. L'elemento della messa a produzione del nostro tempo, anche nel momento del rilassamento, del divertimento, è sempre dietro l'angolo. La mercificazione ormai è la connotazione principale di questi anni 10. Speriamo prima o poi di uscirne da questo imbuto, e intanto spero che sia stata una puntata comunque interessante e stimolante. Ken Camden, Dream Memory, e vi aspetto per giovedì prossimo, e vi lascio ovviamente dopo questo brano e dopo la nostra sigla di chiusura alla programmazione sonora notturna di Radio Città Fujiko. Buonanotte da Elisio Scarpa. Thank you. listening to Late. Thank you. Bye.